finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere. Minuti primi. Dopo 3 mesi di assenza, torniamo in onda. Questo 16 ottobre 2019. Da ultimo, credo, il palinsesto della radio è ormai completo e noi ci siamo attardati. Innanzitutto il pressante invito alla sottoscrizione. Ci siete abituati, ma è una costante. Una costante determinata dalla scelta che la radio ha fatto molti anni fa di vivere indipendente dai grandi e piccoli poteri finanziari. Quindi la scelta di non fare spot pubblicitari. E di essere finanziata da coloro e tutte quelle che ascoltano radio, che la sostengono in vario modo, e quindi la pressante richiesta di un vostro sostegno economico sta nelle cose. Radio Onda Rossa non potrebbe essere senza questo ausilio, quindi www.ondarossa.info, il sito, andate su, sottoscrivi, vedrete che ci stanno tutti i modi indicati in quella pagina con cui potete sostenere economicamente la radio. Il vostro sostegno in termini di idee, di confronto, questo cerchiamo di farlo tutti i giorni, metterlo in atto. Il conto corrente per postale per la sottoscrizione a Radio Onda Rossa, che per noi che siamo ancorati al passato, ma d'altronde ci piace dirlo, è una ritualità a cui non sfuggiamo. Conto corrente postale 6180401 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 560085, Roma San Lollo. Onda Rossa, @ondarossa.info, la mail per le vostre comunicazioni. 25 o'clock @ondarossa.info. E invece la casella di posta elettronica del sottoscritto presso la radio. @0649175 il recapito telefonico di questa emittente. Serve per chiamarci, ma serve anche per darci il vostro sostegno morale questa volta. Quando andiamo bene, quando viaggiamo nella giusta direzione, almeno noi altri che trasmettiamo nella notte, mandateci un ancestrale, mi piace, cioè il trillo. Vediamo che cosa riusciamo a fare in questa stagione. Abbiamo, a partire da oggi, in previsione un po' di chiacchiere da fare per radio. Poi da addolcire o da amareggiare, come vi piace di più, attraverso i suoni che vanno nella notte. E questa sera inizieremo con la presentazione di uno scritto, di un lavoro pubblicato sulla rete, nella rete, e più precisamente nel sito Contro Maelstrom. E intanto, intanto ci scrolliamo la ruggine di dosso di questi mesi passati lontani dal mixer. E andiamo a contattare la voce che poi, come diremo più là, effettuerà anche una presentazione di questo lavoro che si chiama Esclusi. Esclusi dal consesso sociale. Pubblicata su Contro Maelstrom. E andiamo appunto a interrogare l'autore riguardo questo scritto, questo lavoro, questo esperimento. Allora, 22 e 54 minuti primi, pronto, ci sei? Prontissimo, eccomi qua, buonasera a tutti e tutte. Ci senti abbastanza bene? Dobbiamo alzare qui i volumi, fare no, qualcosa? Ci siamo. Ti sento benissimo, ci dai. Siamo. Allora, abbiamo brevemente, non so se eri in ascolto, insomma, con la radio accesa, comunque abbiamo proprio brevissimamente ricordato questa tuo esperimento, insomma, questo lavoro. Per ora pubblicato su, in forma digitale, no? Su Contro Maelstrom, che è il tuo blog che curi personalmente. E un esperimento, insomma, che nasce negli ultimi mesi, negli ultime settimane, insomma, a partire da quale necessità, da quale impulso, da quale mancanza che nella, ovviamente parliamo di carcere, insomma, il tema è quello, mancanza appunto nella comunicazione che si ha riguardo le questioni carcerarie, ecco, da quali stimoli sei partito? Allora, il fatto di fare la versione invece che quella cartacea normale, come gli altri libri, quegli altri due che ho scritto, è la, farla così, smetterlo gratuitamente, scaricarvi a chi voglia leggerlo, Beh, parto perché così l'idea, o forse l'illusione, che i giovani non hanno i 10-15 euro in tasca, se lo possono leggere tranquillamente. Siccome a me interessa che venga letto quello che scrivo, non è che faccio lo scrittore di professione, ma lo faccio perché credo che alcune cose debbano essere viste e conosciute, soprattutto appunto dai giovani, ma anche dagli altri. E quindi ho provato a fare questo esperimento, vediamo se funziona. Dunque, i click, ho visto i click, sono stati tanti, quindi mi fa piacere che molti o molte persone l'abbiano già preso, letto, eccetera, e commentato. E quindi sì, ecco perché questa è, diciamo, la parte tecnica, il perché. E perché poi, perché ho scelto una forma non consueta, insomma, e non appunto quella del saggio, dello scritto politico, insomma, ma una forma più legata alla letteratura di narrazione. Sì, infatti è un tipo romanzo breve, un racconto lungo, secondo me. C'è una storia che avviene appunto poi in una cella di un carcere, dove si incontrano cinque persone di diversa provenienza, ognuno col suo bagaglio, che può essere così. È chiaro che è una invenzione teatrale, diciamo, no? Perché le distanze sono ragazzi di 20 anni appena diciamo, che sono appena usciti di casa, chi ci ha avuto a che fare con la droga, chi invece con la lotta, le lotte ambientali, eccetera, e vecchi carcerati che hanno fatto il ciclo di lotte degli anni 70-80, quindi questa differenza, che probabilmente nella realtà non è detto che avviene, però potrebbe avvenire, perché nelle carceri attuali italiane ci sono gli uni e gli altri, ci stanno i ventenni, i diciottenni, addirittura pare, piccola parentesi, che vogliono diminuire, per me l'altro governo voleva farlo, aveva già preparato una proposta di legge per diminuire l'età della punibilità penale, cioè portarla a 12 anni, fa entrare i bambini in carcere. Però comunque, per fortuna, per ora non sta andando avanti questa cosa. Però comunque dico, ci stanno i 18enni, 17enni, 15 anni in carcere, e ci stanno ovviamente anche le persone di 70-80 anni. Quindi potrebbe succedere, può darsi che in qualche carcere sia avvenuto un incontro, certo, così. E in questo incontro chiaramente si svolge tutto il dibattito, a partire da un fatto avviene un suicidio, e quindi la voglia di questi, che anche questo non è un fatto così raro, tutt'altro, no, direi. Assolutamente. No, l'altro anno sono stati 67 suicidi. Pensate, su una popolazione di 60.000 abitanti, se fosse lo stesso rapporto portato fuori, che siamo 60 milioni, sarebbe molto più di mezzo milione di suicidi. Quante sono le carceri in Italia? Quanti sono i centri di detenzione in Italia, le carceri, insomma, quante sono? C'è intorno ai 200-197. Quindi è molto probabile che, diciamo, un morto all'anno ci sia in un carcere X qualsiasi. Certo, infatti. Una possibilità su quattro. Sì, che è un allarme, lo dicono anche loro, cioè, diciamo, gli uomini che stanno nei palazzi lo dicono, e hanno messo su sistemi, hanno chiamato psicologi, fanno convegni, studi, eccetera. Ovviamente quelli non calano di una virgola, perché va, credo che anche alcuni di loro lo sappiano già, e lo dicono lì alcuni nel dibattito tra carcerati. Qualcuno dice: ma quali sono i ragazzi giovani? Domandano perché, qual è la ragione perché ci si suicida in galera, e il carcerato dice: la ragione è la galera stessa, se c'è la galera. E questo i tecnici non potranno mai dirlo, potranno dire che le celle brutte, sporche, l'acqua fredda, l'assenza di pochi colloqui, tutte cose secondarie. Non possono dire quello che è il motivo reale, che è la galera. È la galera, cioè, se ti tolgono la libertà oggi, in quest'epoca, la libertà è tutto, quindi vuol dire che ti tolgono tutto. Allora uno dice: perché io faccio l'altro passo e non gli do l'ospizio di tenermi loro, e me ne vado. Non solo, modo, ma per andarsi, quella è la fuga alla portata di tutti, certo, l'evasione, certo, alla portata di tutti, è il suicidio. Fai dire proprio ai personaggi di questa commedia, insomma, o di questo dramma, forse sarebbe meglio, però c'è un finale poi che non è così pessimistico, anzi tutt'altro, e quindi fai dire a loro stessi che tutto sommato non è affatto un fatto di follia il suicidio, ma è un fatto invece di razionalità estrema, probabilmente è la cosa più ragionevole che si possa fare in una situazione come quella della non vita in carcere. Scusami, ti ho tolto il filo. Hai colto perfettamente, perché quando, cioè, è chiaro che ci sono mille racconti, dei film, Papillon, tanti film ci stanno anche fatti bene sul carcere, dove l'elemento centrale del carcerato è quello della fuga, l'evasione, no? Riconquistare la libertà, è quello ciò che lo mantiene in vita, è quello l'obiettivo principale. A prescindere dalla pena, sia lunga o breve, il carcerato vuole scappare, tornare in mezzo a gente libera. Non è sempre facile, oggi siamo una società così militarizzata, con le carceri super. Prima c'era solo un muro, ora ce ne stanno due, con tutti i sistemi di allarme sofisticati, eccetera, è molto difficile. Un dato, se qualcuno interessa i dati, negli anni 70 c'erano 600-700 evasioni l'anno. L'anno scorso sono state 30, 30, 32, 33, di cui metà sono stati riacchiappati. Per cui la fuga, diciamo, purtroppo, secondo me, ovviamente voi altri avete, secondo me purtroppo è in via di diminuzione molto forte, e però rimane quell'altra fuga, quindi la fuga di se uno non ce la fa più, ragiona, e appunto, come dici che hai colto bene tu, il suicidio è un atto pensato. A me mi è capitato di parlare, di farmi chiacchierate lunghe, notti intere, con dei compagni di cella che avevano provato a far suicidarsi, e per fortuna eravamo beccati al volo, perché noi questo affollamento a volte gioca a favore dell'interruzione del suicidio, perché basta che intanto in cella qualcuno c'è il sonno leggero, i carcerati hanno tutti il sonno leggero, basta un piccolo rumore, uno si sveglia, vede che si sta a piccare e poi lo ferma, e poi si mette a parlare, perché finito l'atto non lo ripete. Questo è abbastanza, uno che si sta suicidando e poi viene interrotto, non è che lo ricomincia subito, perché è dovuto caricare per fare quel gesto, ha dovuto fare appunto una grossa concentrazione su se stesso per fare quel gesto, e viene interrotto prima che rimette in moto le forze per ripartire, tanto. E allora uno si ferma a chiedere: ma perché l'hai fatto, com'è? E chiacchiere lunghe chiacchierate, tanto tempo ce n'è tantissimo in cielo, no? E lunghe chiacchierate, ebbene, la cosa è che ti dicono tutti i fatti, cioè sono l'evento del suicidio è molto ragionato, forse è la cosa più ragionata dal carcerato. Considerate che sui 60-70 che avvengono l'anno di suicidi, ce ne stanno circa 1200 tentati e non riusciti, per fortuna, quindi una cifra spaventosa. Cioè è una popolazione che non cerca altro modo se non quello di andare via, anche nella forma più estrema, di andare via totalmente. Quindi il suicidio ha fatto presente a tutti i carcerati, perché poi in ogni carcere ce n'è uno, quindi tutti ne parlano, e questa si svolge intorno a questo discorso, e da lì scoprono i giovanissimi e quelli che già stanno tutto nel carcere, scoprono un po' i meccanismi di questo mostruoso, che tra l'altro è molto molto vecchio e non funzionante, però che non funziona, non raggiunge gli obiettivi che dice di voler raggiungere, cioè il recupero, la rieducazione, il reinserimento, poi non li raggiunge, ma nemmeno la deterrenza, perché non è che essendoci il carcere la gente fa meno reati, diciamo quei cosiddetti reati, no? Vengono fatti perché uno evidentemente c'ha bisogno, chi ruba c'ha bisogno di rubare, e chi fa una rapina c'ha bisogno, insomma, per tanti altri motivi, non è che la gente gira col codice penale in mano e dice questa cosa la faccio, non mi conviene perché vado in galera, non è così, no? Certo. Quindi non c'entra niente, non ha nessun rapporto il livello di carcerazione con la quantità di violazioni di legge fatte, ma questo lo dicono la gran parte dei grandi giuristi, non è che lo dico io, quindi ci stanno tutti, chi volesse, casomai può non dirlo un Salvini, questi poveracci che governano questo paese, ma questi sono analfabeti da tutti i punti di vista, e anche da quello di non conoscenza di quali sono i meccanismi di queste società, però la gran parte dei giuristi dicono che appunto non c'entra niente la quantità delle violazioni di legge con la carcerazione, cioè sono due cose che la carcere sta lì per un'altra cosa, e questo è importante pure, viene fuori, sta lì perché rappresenta, questo pure l'hanno detto degli studiosi molto, però lo spento in carcere lo scopri, rappresenta un po' il, come dire, la risposta a tutto quel rancore, che tutti abbiamo rancore verso qualcosa di indefinito, e con chi ce l'ha, con dove lo scarichiamo questo? Dove lo possiamo scaricare questo rancore? Su quello che ti portano lì loro, no? Impagliato in piazza perché ci scateni contro, no, la tua rabbia. Infatti il clima, insomma, quando c'era la pena di morte si faceva in piazza. La gogna, forme antiche, vecchie, certo, diciamo di punizione prima del carcere, venivano messe in piazza. A Roma era piazza del popolo, dove veniva messa la gente quando c'era Roma, diciamo, dello Stato Vaticano, certo, c'era la gogna in piazza del popolo, la gente veniva messa in piazza, la gente passava, discutava con sottoscritto il reato che avevano fatto, discutava in faccia. Quindi questo perché la punizione dovrebbe avere la funzione di deterrenza, cioè disincentivare gli altri a dire, vedete, che trovate la legge che vi tocca fare. Infatti anticamente le carceri stavano al centro, le antiche carceri stanno al centro della città, perché il cittadino deve vedere il luogo di punizione. Poi siccome problemi di soldi, bici, imbrogli, eccetera, il terreno al centro costa un sacco di soldi, l'hanno fatto sempre più lontano, è ovvio. Ma il capitalismo c'ha delle sue. Ha bisogno del carcere, appunto, che raccoglie tutta la rabbia della gente che sta male, però poi non lo può tenere al centro della città perché il terreno è troppo, se lo vende ai supermercati perché gli pagano di più. Ascolta una cosa, appunto, sì, no, non ti voglio interrompere, sì. Così per inciso, ti fai fare questi ragionamenti che adesso hai cominciato, inventi invece un escamotage letteraria in cui appunto poi questi ragionamenti vengono fatti dai vari personaggi e protagonisti della vicenda, alle volte anche con una proprietà di linguaggio, una cultura non indifferente, non di bassa lega. Ecco, i carcerati studiano molto in realtà poi dopo la condizione carceraria, questa assenza quindi e questo tempo assolutamente sospeso porta anche appunto a, cioè, un tipo di livello culturale di questo genere che credo sia anche un'opposizione che un po' ti hanno fatto alla lettura di, non io, che però ti hanno fatto nella lettura di questo scritto, insomma, è verosimile, è possibile che ci sia tanta innanzitutto consapevolezza, forse è più facile che venga nello svolgersi della vicenda, è spiegato bene come questa consapevolezza prende piede, ma anche questa base di partenza, questa cultura tutto sommato generalizzata o comunque di cui sono portatori alcuni dei personaggi, prima appunto te indicavi appunto che c'erano delle vecchie i vecchi del carcere, quelli con una carcerazione molto lunga, ecco, è questo, è verosimile comunque, è, perché è molto diverso questa tua descrizione che fai del carcere e l'altra parte diciamo della domanda con quella che è la letteratura, a parte i grandi classici eccetera. Adesso ci stanno addirittura delle serie televisive americane, no? Che parlano di carcere, della vita in carcere, o magari dei film di fantascienza più moderni in cui appunto c'hai dei supereroi che tentano l'evasione, che sono capaci di evadere dai carceri assolutamente più forti del potere che ti schiaccia. Ecco, quindi un'ambientazione, un'atmosfera che è completamente opposta a quella di questa filmografia sciocca, diciamo, per lo più statunitense, ma non solo, insomma, che parla del carcere in maniera così semplicemente cinematografica per fare il film di cassetta e mettere un eroe, un supereroe dalla parte giusta o dalla parte sbagliata. Infatti io pensavo che sarebbe venuta questa cosa, cioè, infatti sembra, cioè, no, parlano così bene, sembra un convegno invece che nascere in un carcere. In realtà appunto c'è questo modo di pregiudizio sempre, no? E appunto a volte film oppure anche molte canzoni, no? Infatti fanno vedere carcerato come sì, casomai buono, però rozzo, ignorante. Basta leggere a fine sui giornali locali, c'è sempre un trafiletto in cui parlano di carcere, ma non parlano di carcere sui problemi di salute, ma parlano di tutte le iniziative che i direttori mettono in corso per far vedere ai giornalisti che invitano e alle personalità le persone che stanno presso la laurea dentro al carcere. Sono tantissime le persone, ritengono i funzionari del carcere italiano, guardano di tutto il mondo, pensano che facendo studiare i carcerati li recuperano, e infatti studiano, pigliano lauree in continuazione, sono qualche migliaio che hanno preso la laurea in carcere, non sono due o tre, tantissimi, quindi almeno a parlare, a scrivere, a leggere un libro, a saper discutere come quelli fuori, casomai leggono più quelli dentro che quelli fuori, questo è un paradosso in genere, vale per in generale persone sia così oggi, e quindi sì, hanno proprietà di linguaggio, sanno parlare, però diverso infatti è quello che si prende attraverso la scuola pubblica, l'università eccetera, attraverso la cultura scolastica, e quello che è invece il sapere maturato dal carcerato e la sua frequentazione nel carcere, la conoscenza dei codici carcerari, dei linguaggi carcerari, dei meccanismi. Ecco, questa cosa non si acquisisce per studi, ma si acquisisce per esperienza, tenendo gli occhi aperti, come dicono in gergo, tenendo lo spioncino aperto, che vuol dire sempre attento a quello che succede. Sono due livelli di sapere insieme, però appunto il parlare l'hanno conquistato, parlano bene, sanno scrivere, appunto devono fare domande complicate per le varie misure alternative, la menzione di libertà eccetera, la sanno scrivere in buon italiano perché fanno le scuole, hanno alcuni anche l'università, quindi non è quello il problema. E quindi questo scaccia via un pregiudizio appunto del reietto, infatti è così recluso, reietto, no? Scarto della società. Come una volta si pensava che fosse, perché quella frase che ho messo a titolo, no? È quanto dice il regolamento del 1931, firmato da Alfredo Rocco e Benito Mussolini, e che raccoglieva proprio l'essenza dell'ideologia fascista sul carcere. Loro dicevano che i carcerati sono coloro che hanno rotto un patto sociale, quindi vanno espulsi dalla società, siccome non possiamo espellerli fuori dal territorio nazionale, allora li mettiamo in carcere, ma il carcere deve essere qualcosa di avulso, esterno alla società, quindi il rapporto tra società e carcere va escluso. Durante il fascismo infatti non ci devono essere entrate di altri, non di parenti stretti, no, per i colloqui non ci deve essere questo ingresso, questo rapporto tra società e carcere, quindi l'area proprio esclusi dal consorzio sociale, questo è il concetto. Ovviamente quando ci sono stati, c'è un bel pezzo dove discutono i deputati e le deputate dell'Assemblea Costituente, discutono anche di carcere per altre cose, no? Abbiamo discusso con giustizia e carcere, tutta gente, quasi tutti hanno fatto il carcere, certo. Gli antifascisti dell'Assemblea Costituente, perché sia quelli comunisti socialisti ma anche i cattolici, perché chi era antifascista andava a finire in carcere, quindi sapevano di che parlavano. In questo il fascismo era l'egualità. Dicono esplicitamente: noi dobbiamo ribaltare il punto di vista che ha il fascismo sul carcere, quindi dire questo viene esclusi dal consorzio sociale, per noi deve essere abolito, per noi il carcere deve essere solo un passaggio il più breve possibile per ricondurli dentro la società, quindi il rapporto tra carcere e società deve essere il più i muri devono essere trasparenti, devono essere il più continuo possibile. Addirittura c'era qualcuno, mentre Terracini, che propose il massimo della pena 15 anni, non più di 15 anni, perché in effetti se bisogna dare il tempo poi di ritornare nella società e fare la loro entri vita. Entri giovane, esci vecchio, insomma, esci adulto, non è che è una pena breve, insomma. Certo, 15 anni devono essere più che sufficienti. Se pensi tu, Stato, di poter recuperare le persone, ti do 15 anni è più che sufficiente, quanto ce lo mette? Sono la vita, hai 80 anni, quindi il tempo ce l'hai. E invece beh, questa fu bocciata, cioè, non fu bocciata nemmeno, ma fu detto rimandiamo ai futuri parlamenti quello che sarà il limite, e quindi poi i futuri parlamenti furono quelli a maggioranza democratica. E quindi è rimasto in vigore il codice Rocco alla fine. Esatto, più o meno, e vale ancora oggi il codice Rocco, quindi immaginate che infatti il regolamento del 31 tra di loro se lo dicono è quello fascista, ha avuto vigenza nelle carceri fino al 1975, cioè 30 anni dopo, alla faccia della liberazione. Questo vale per tutti quelli che fanno le commemorazioni, i riti, i festeggiamenti, ma poi concretamente non è che ne abbiamo vista tanta di liberazione. Comunque, a parte questo fatto, ecco, quindi il problema è che proprio per togliere anche quel pregiudizio, quello buono, non quello cattivo, si sa, vedi, vorrebbero, no, l'ha detto il ministro degli interni del governo precedente, si sa buttare la chiave, vabbè, si sa come la pensa, perlomeno è chiaro e netto. Invece i buoni sono quelli che dicono no, ma la galera ci deve stare, però deve essere più buona, deve essere più accogliente, cioè, quindi hanno un'idea un po' strana, fare un carcere accogliente veramente è un po' uno ossimoro, è veramente complicato. E quindi questi, allora uno, io un po' come se fosse dentro questa cella nasce questo interrogativo provocatorio verso i buoni, verso, infatti qualcuno dice quelli che beh, dobbiamo ricontattare quelli che vengono a visitare il carcere, sì, ma questi qui devo domandarli, lo volete mantenere il carcere oppure no? Perché se lo volete mantenere mettendo le dentine rotte ai finestre, non ci va bene. Cioè, per sfatare un po' anche il buonismo che dice sì, per carità, i carcerati vorrei stanno male, facciamoli stare un po' meglio, però sempre in carcere dobbiamo tenerli. Cioè quella divisione tra il mondo degli onesti e il mondo dei deviati, dei cattivi, teniamolo bello nel muro, teniamolo bello. Sì. È anche il contrario di quello che hanno pensato i padri e le madri costituenti. Eppure tutti ne saltano questa costituzione, ma nessuno l'ha letta o comunque non l'hanno approfondita. Se hai un minuto di tempo, sì. per volevo leggere proprio 10 righe da Esclusi. Segreti per segreti, dice Marcello, vi racconto un'altra cella particolare. Ascoltate, in ogni carcere c'è la cella liscia, ma sui giornali oggi viene chiamata cella zero, perché non ha numero, né potrebbe averlo, perché ufficialmente non esiste. È presente in tutte le carceri e le autorità tranquillamente negano. Questa cella ha le dimensioni di un normale cubicolo, ma dentro non c'è nulla, ma proprio nulla. A volte una striscia di gomma piuma a mo' di materasso, senza rivestimento, buttato a terra e nient'altro. Né branda, né lenzuola, né coperte, né sgabelli, né tavoli, nemmeno secchi per urinare e defecare. Il pavimento è in leggera pendenza, verso un angolo dove c'è un buco attraverso cui gli escrementi sul pavimento vengono portati via da un forte getto d'acqua periodicamente attivato dai secondini. La cella liscia viene usata per i detenuti ritenuti agitati, quelli che urlano e cominciano a fracassare ciò che hanno intorno. La mancanza di ogni cosa è giustificata dall'amministrazione dal dovere evitare che il detenuto si ferisca o peggio. Per non rischiare che il detenuto si ferisca, lo si sottopone alla peggiore tortura. Ma come cazzo ragionano? Due celle anomale, sottolinea Marcello. Nella prima, quella infinita, la mente si sconvolge. Nella seconda, la liscia, il corpo torturato e annichilito, fa sconvolgere la mente. Così, anche per dare un'idea della scrittura di questo testo. È così, purtroppo è così. Questo insomma è il carcere che descrivi. Ma poi per fortuna succede qualcosa così, senza voler svelare, poi sperando appunto che invece venga svelata piano piano come si dipana la storia di questo racconto, appunto c'è questa presa di coscienza, no? Che nasce da questa consapevolezza della realtà di tutti i giorni del carcere, no? Certo. Infatti è dentro i fatti di oggi, perché a un certo punto quelli che non volevano fare la protesta si agganciano, dice ma ci sta una riforma in atto, stanno preparando una grande riforma, in realtà qualcuno dice guarda che i nuovi governanti l'hanno affossata, parla delle cose di oggi, non dei vent'anni fa. Tanto è vero, la riforma, quella che era la riforma Orlando, in cui molti detenuti avevano sperato, hanno fatto pure i scioperi della fame, no? Il Partito Radicale aveva organizzato questa referendum dicendo facciamo sciopero generale dentro e fuori, fuori anche alcuni l'hanno parlamentari o altri hanno fatto sciopero della fame, per favorire questa riforma che favoriva il passaggio alle misure alternative, no? Cioè meno carcere intramuraglio e più misure alternative che sono arresti domiciliari, sistema di libertà, lavoro distanza. Chissà quando è venuto il governo invece Salvini Di Maio l'hanno azzerato, buttato via nel cestino proprio per fare qua. E quest'altro governo qui non lo sta ritirando fuori. E quindi lì c'è questo dibattito, c'è il dibattito proprio quindi dell'oggi tra chi, ragazzi, giovani, insomma soprattutto i giovani che credevano in queste riforme, questa volontà di riforma del governo, e quelli un po' più vecchi che siccome ne hanno prese tante del gabellato in faccia, dicono attenti ragazzi che qui c'è una fregatura, ci fanno credere che faranno e poi non fanno niente. E quindi te illustri questo dibattito che effettivamente esiste, quindi fra coloro che magari stanno da meno tempo rinchiusi o quelli appunto di più provata esperienza, che comunque la cosa è anche abbastanza, no? Più caotica in realtà, perché ci stanno anche i vecchi reclusi però ormai sfiduciati, insomma, che ci sia la possibilità dentro il carcere di poter organizzare comunque delle lotte, delle battaglie che possano far uscire fuori l'idea e la necessità appunto della libertà. Una cosa, in tutta questa vicenda accade anche che appunto ci sta questa presa di coscienza, e accade qualcosa di magico, se vuoi, insomma, qualcosa che accade dentro il carcere, accade fuori, accade ogni qualvolta ci sia una presa di coscienza che non sia solamente individuale, ma che comincia a comunicare, che diventa collettiva. Nelle lotte, nelle battaglie di fuori si fa un'assemblea, si scende in piazza, si organizza la riunione appunto la manifestazione, e in questa maniera i corpi, le anime, l'intelligenza delle persone allo stesso tempo comunicano sia sul piano emotivo sia sul piano proprio delle idee. In carcere invece è tutto un po' più complicato, no? Questo aspetto, e però si verifica uguale, insomma. Quali sono gli escamotage, così, tanto per dare ancora qualche se non altro per mettere un po' di curiosità, insomma, poi nella lettura del testo. Siccome hanno bisogno interesse e bisogno di stare in una sorta d'assemblea, e siccome le assemblee sono vietate in carcere, allora devono mettere in moto tutti quei meccanismi che in parte ce ne sono anche tanti altri. Uno è quello di utilizzano questo fatto del torneo di pallone, dicendo che alla fine la squadra vincente tra tutti i reparti dei detenuti sarebbe incontrato sulle guardie. Questo stuzzica l'orgoglio del direttore, che se fa c'è uno scontro tra guardie, c'è una partita tra guardie e detenuti, lui acquista dei punti, perché questo ritengo che sia un percorso di rieducazione. E come i detenuti non è che amano le guardie, non meno le vedono e meglio è, men che meno ci farebbero una partita di pallone insieme. Però questo non si fa, mettono in piedi questo meccanismo in modo che prima fanno le partite tra le prime reparti, erano quattro reparti questo carcere, tra reparti, e quindi si vedono tutti quelli che dei vari reparti che discutono di questo, e quindi fanno questa assemblea di rit, come fosse un'assemblea itinerante. L'altro meccanismo è quello delle teleferiche, cioè far passare da sotto a sopra con dei cordoncini e un biglietto legato al vaccino, no? Si va assunto con la dalla cella di sotto con un gancetto viene preso e si passano, quindi si parla così con dei bigliettini della periferia. L'altro sistema è quello di mettere in moto i lavoranti vengono, ovviamente fanno parte quelli che portano. Sono gli unici che hanno una mobilità in tutti gli orari, in orari diversi da quelli quelli in cui. Sì, in genere sono tutti i lavoranti, vengono presi tutti da un braccio, da un reparto, in un reparto dove ci mettono quelli che hanno le condanne meno pesanti e che sono anche più tranquilli, li mettono tutti lì e la mattina questi escono alle 6, chi va in cucina, vanno in cucina a preparare i pranzi, oppure vanno fanno in giro a raccogliere la spesa, portano la sera, spazzano i corridoi, cioè questi lavoranti qui, però poi girano tutto il carcere loro e quindi possono fare, se sono bravi ragazzi, cioè conosciuti gli altri, possono andare in giro e fare una sorta di sondaggio, e questo viene fatto e porta su porta dei buoni risultati, perché c'è poi appunto un reparto dove ci stanno tutti stranieri, cosa che non si dovrebbe fare, è vietato, però che lo fanno lo stesso i direttori per controllare meglio, dividono, no? Il concetto del divide e libera vale sempre, varrà sempre, anche se i regolamenti lo vietano, perché poi il regolamento è una cosa, la realtà è un'altra, e anche lì ovviamente, anche in carcere, e quindi fanno cioè questo reparto tutto di stranieri che appunto quando sanno che c'è questa proposta di fare una protesta, non siamo d'accordo al 100%, e questo fa scattare come un po' l'orgoglio degli altri, dice come no? Questi sono stranieri, diciamo pure che li cacciano via e vogliono fare la protesta, noi che siamo italiani eccetera, e facciamo pure vogliamo fare pure i duri, vogliamo, cioè, allora, ma per questo fa tutta la stessa meccanismi che succedono in una comunità di persone, però alla base di tutto c'è la ritrovata solidarietà, che è la cosa importante, perlomeno quello è un po' il messaggio. E anche la fiducia, la fiducia che appunto uniti, che comunque con la dovuta organizzazione, che in carcere, come dicevi, è difficilissima da realizzare, molto più difficile che di fuori. Di fuori è già di per sé appunto comunque oscurata da un manto di, anche lì come dentro appunto c'è questa sommata ideologia, no, della sconfitta, quindi della non impossibilità di poter far nulla. Fuori come dentro per di più, diciamo, nella depressione che carcere comunque procura, no? Per forza di cose è ancora più difficile. E appunto descrivi, lo dicevi poc'anzi, un carcere che probabilmente l'ambientazione del libro è quello dell'oggi. Credo che diciamo nei tempi in cui tu hai appreso dal carcere, mettiamola così, c'era senz'altro una forte componente migrante, insomma, ma probabilmente si trattava più di dialetti, no? Italiani, sì. Che oggi ormai la componente migrante è estremamente importante, cresciuta di numero, insomma, adesso non è tantissimo, certo. È un terzo adesso. Insomma, sì, dimmi. No, dico, però i meccanismi sono molto simili, pressoché gli stessi. Quando poi c'è questa, qualche fotografo hanno fotografato i cartelloni che c'erano, ad esempio, nei bar milanesi o torinesi degli anni 60, quando c'è fu l'immigrazione dal sud al nord, che ha scritto che è dato l'ingresso ai cani e ai meridionali, no? È classica questa cosa. Hanno fatto pure i film, e adesso è scritto che danno ingresso ai cani, insomma, ai marocchini, ai magrebini, o ai tunisini. Quindi non è che, cioè, come dire, poi il nemico cambia faccia, ma poi alla fine ce lo presentano. Prima era il meridionale, a volte proprio lo specifico, il siciliano o il pugliese, secondo quello. Adesso è il magrebino, oppure il romeno, l'albanese, cioè, c'è una varietà. Questo dovrebbe farla, cioè questo personaggio, il nemico verso cui buttare tutto il nostro rancore e i sentimenti dovuti alle condizioni di vita di merda che facciamo, che non è certo colpa del tunisino o del magrebino, che facciamo un lavoro di merda, se il padrone si tratta male, no? Però loro sono capaci a indirizzare questo nostro rancore. Cambia di faccia, cambia di colore, cambia di lingua, ma comunque ci deve stare come figura archetipa, insomma, quella del. Dunque, tra l'altro, un altro escamotage, lo racconto io se permetti, è quello che appunto, essendoci delle persone che parlano l'arabo, l'arabo è una lingua molto diffusa praticamente in tutto il Nord Africa fino al Vicino Oriente, insomma, quindi ci stanno tante persone che parlano arabo e alcune comunicazioni avvengono proprio in questa lingua per evitare che le guardie, che normalmente non leggono probabilmente quanti detenuti non hanno la loro cultura, non possano intercettare le comunicazioni che avvengono sempre fra i vari reparti. Le forme di lotta che vengono un'altra cosa che mi aveva un po' interessato della vicenda, perché è un altro aspetto importante del racconto che mette in evidenza. A un certo punto, forse per sua genesi storica, per sua costruzione proprio storica, storicamente determinata, il carcere potrebbe essere egualitario, nel senso che il carcere ha le celle, poi come dici te appunto avvengono una serie di cose in cui appunto il carcerato, almeno questo nell'illusione della legge, è da solo di fronte al potere, no? Che si manifesta nell'istituzione carceraria. Un po' la letteratura dice che appunto entrando in carcere si lascia quello che si era fuori, per cui ricco o povero, no? Almeno questa è la leggenda che si racconta, la cultura borghese, entrando in carcere poi tutti si è uguali. In realtà questo non è vero, lo sveli attraverso pure una serie di meccanismi e di poi composizioni che avvengono in carcere. Ne hai accennata qualcuna parlando di bracci, reparti destinati ai lavoranti, altri destinati alla popolazione emigrata e altri ancora e quindi già di per sé questa selezione, questa tassonomia, questa divisione è di per sé una divisione utile a mantenere l'ordine del carcere, a stabilire gerarchie, ma ce ne sono di ben più pesanti, no? Se vuoi illustrarne te, cioè a un certo punto c'è il discorso della mala, in qualche misura, forse è più una composizione un po' più antica, no? La cosiddetta mala pesante, la mala che intrattiene, no? Se questo un po' è l'argomento. Sì, perché il carcere, questo anche molti letteratura, diciamo, antica in Italia, diciamo, del secondo dopoguerra lo racconta, questo fatto che il carcere è il luogo di reclutamento delle grandi bande, sì. Mala pesante è il nome che si usava per quella che è la malavita organizzata, poi adesso è stato tutto sostituito da mafia, però si usa talmente un po' troppo mafia che viene quasi svilito, invece mala pesante dà proprio il senso, no, di quelli che fanno le grosse cose. Comunque malavita organizzata, possiamo usare questo termine, che questi qui da sempre, la mafia da sempre, lo dice, l'hanno detto anche i pentiti, noi reclutiamo in carcere, perché in carcere trovi i disperati, cioè chi non c'ha niente, chi c'ha pure un sacco di problemi, a volte non c'ha neanche i soldi per pagare il suo avvocato, i familiari stanno senza una lira, cioè, e quindi ovviamente quelli arrivano con il loro soccorso e dicono: se diventi un affiliato e ti abbiamo risolto il problema. E questo è vecchia cosa, questo lo sanno tutti. A volte lo sentivo di anche ai fronditi, quando accompagnavano un ragazzo giovane, lo prendevano, arrivava, no, con le volanti, lo acchiappavano e lo portavano nei reparti in carcere, e poi dicevano va, fatta affiliare una banda adesso, va, viene trovato il punto d'arrivo, quindi lo sanno tutti, è diventato, e quindi questo è il contrario del reinserimento di educazione, anzi sembra che lo Stato lavori, e non è detto che non lo faccia consapevolmente, certo, perché poi tutto serve a far crescere il PIL, anche le attività malavitose, quindi vanno, però che non lo sanno tutti che appunto se tu prendi un ragazzo giovane e che ha fatto un furto o ha spacciato un po' di roba o ha fatto un po' di traffici illeciti, lo buchi in mezzo a, diventa l'affiliato della banda, perché se, almeno quello c'ha i soldi delle sigarette, quindi è normale, è tutto normale, quindi lo sanno, non è che non sanno, evidentemente che lo Stato in qualche modo favorisca lo sviluppo della malavita grossa, è ovvio che è così. Però anche il fatto stesso di lasciare intere aree del paese, non solo in Italia, in tutto il mondo, si lasciano intere aree del paese devastate, senza occupazione, immiserite, eccetera, è chiaro che significa favorire che diventano sacchi di reclutamento per la malavita organizzata. Questo è ovvio, per cui è ovvio che non c'è una lotta alla mafia in Italia, c'è l'arresto dei mafiosi, che è ben altra cosa che lotta alla mafia. Questo lo sanno, lo disse una volta anche Falcone, noi arrestare i mafiosi, ma vorremmo che si facesse la lotta alla mafia, che è un po' diverso, significa togliere le condizioni, perché per esempio se ci fosse piena occupazione si ridurrebbe ogni molto, quindi ma questo diventa un discorso più pesante, però è così, deve essere chiaro a tutti che in fondo l'esistenza del carcere non solo non serve a nessuno, a qualcuno serve, se appunto a questi, alla malavita organizzata, che si perde, ecco, c'è pure questo dibattito, i carcerati dicono prima comandavano i boss, poi con le rivolte, lotte, cioè con l'organizzazione in collettivi abbiamo rotto questo controllo, diciamo, del suo dominio, l'egemonia dei boss mafiosi in carcere, ma adesso rischiano di riprenderlo, perché appunto il carcere l'hanno tra virgolette pacificato, cioè non ci sono più proteste, quindi la vita organizzata lo riprende in mano, in convulta con la direzione, oppure non in convulto, però hanno lo stesso tacito assenso, cioè, insomma, comunque, esatto, perlomeno, certo, e certo. Difatti i protagonisti, poi quelli che diventeranno i promotori, i protagonisti della rivolta, se questo della rivolta, della protesta, perché di fatto non si tratta di nessun tipo di azione così eclatante, di una semplice protesta non violenta, possiamo dire che potremmo usare, no, come termine virgolettato, ecco, i stessi promotori hanno il loro più grosso problema, non sono né le guardie né il direttore tutto sommato, ma chi può far fallire la protesta è proprio questo potere occulto, questa trama che appunto è animata da questi personaggi che cercano appunto di comunque instaurare questo tipo di rapporto appunto anche nel carcere di cui ti hai parlato. Diciamo abbiamo raccontato quasi tutto, l'epilogo finale lo lasciamo a che sospeso, lo lasciamo in sospeso. Però ci stanno un paio di cose nella conclusione, no? Poi ci si chiede sempre, come in ogni piccola o grande battaglia, se si è vinto o se si è perso. Se si è perso, il risultato poi finale, effettivamente, mettere sulla bilancia i vantaggi e le punizioni che si è ottenuto, è un metro sbagliato probabilmente di giudizio, perché nel momento in cui solamente si è animata questa grande emotiva partecipazione, questa unità, questa presa di coscienza, questa sveglia che si dà per una volta, diciamo già si è fatto quello che si doveva fare. credo, no? Quindi lo lasciamo a qualcun altro la valutazione delle vittorie o delle sconfitte. A noi probabilmente interessa la presa di coscienza. Ascolta, io non so se vuoi aggiungere qualcosa che ci siamo dimenticati, poi c'ho un paio di domandine finali che ti volevo fare. No, io non faccio niente, fai col finale. No, vabbè, il finale è semplicemente questo. Io così ti dicevo le mie impressioni, insomma, davo a questo testo più la possibilità di essere, no, un soggetto, più che un testo così chiuso ancora, ma di potersi sviluppare ancora, cioè di poter trovare una collocazione diversa dal blog stesso. Esortavo, insomma, artisti creativi a volerne prendere motivo per sviluppare qualche opera. Così, la domanda è un po' maligna, ecco, questa che ti volevo fare, così tanto per poi complicare un po' le cose, aggrovigliare i ragionamenti. Se per ipotesi, e facciamo per ipotesi, fosse fatta una riduzione teatrale di questo testo, e anche fatta bene, anche approvabile da tutti i punti di vista, e fosse che è un po' poi il dibattito che c'è, no, dentro il libro, e fosse sottoposta a una direzione, un'amministrazione che non sappiamo se esiste comunque, cioè ci stanno un sacco di sé in questa domanda, fosse sottoposta a un'amministrazione, appunto, per far partecipare un laboratorio di detenuti, di detenute alla rappresentazione del testo, sarebbe una cosa a cui te daresti il consenso o no? Cioè comunque ti sentiresti deprivato comunque del motivo, della ragione principale per cui hai scritto questo testo, oppure tutto sommato va bene tutto, va bene anche che basta che venga presa coscienza, insomma. Certo, a partire da se ne fanno una rappresentazione teatrale, se ne fanno un fumetto, se ne fanno qualunque cosa, per me va bene, a meno che non ne distorcono i contenuti. Certo. Ma magari io sono convinto, lo dicono anche nel dibattito che c'era tra di loro lì nel libro, lo dicono, che i carcerati hanno una grossa capacità di recitare, perché devono fingere per poter arrivare sani e saldi a fine della carcerazione. Quindi questo matura, tanto è vero che ci sono dei compagni teatrali molto bravi in carcere, e c'è stata anche la compagnia della Fortezza di Volterra, che è diventata famosa, è poi una grande compagnia, Armando Puzzo, che è questo grande regista teatrale, che l'ha gestita lui, però insomma, e dice, magari la fai in carcere, vabbè, se non cambiano i contenuti, accetta, il consenso è automatico, vabbè, se tu, anche se vuole qualcuno a fare un fumetto, ma magari va bene lo stesso, perché giri, circoli, speriamo che arrivi alle orecchie di più persone, quello che interessa a me. Sì, insomma, sì come credo proprio te dicessi in un'altra occasione, noi piantiamo i semini e poi vediamo che esce fuori, insomma. Speriamo che cresca. Bene, ascolta, ci vuoi ricordare, perché noi abbiamo fatto così una lunga chiacchierata rispetto a questo testo, ci vuoi ricordare un po' gli estremi, cioè dove poter andare a scaricarlo, a leggerlo, e soprattutto domenica pomeriggio, no? Dici un po'. Domenica pomeriggio al Nino di Veste, che sta a Via Recicli, al Quadraro, penso che tutti che ci ascoltano conosce benissimo, al Nino di Veste, al Quadraro, Via De Ciceri, c'è la presentazione alle 18:30, poi seguirà la cena, e quindi faremo una piccola chiacchierata, chi vuole venire, per leggere o scaricarlo, stamparlo, le cose semplici, si va sul sul sito contro Maelstrom su Google, dai. Esatto, e poi lì dentro c'è, cioè, appunto, ci sta tutta la, diciamo, il link dove battere, e viene direttamente il scaricabile, il testo, tranquillamente. Insomma, si può scaricare in PDF, in Word, oppure in Pub, che è quel, diciamo, quello che permette di andare su sugli ebook, sui lettori ebook, molti ragazzi hanno il lettore, e quindi non va benissimo, dai, perché io credo che stamparne qualche copia, perché per tenerla dalla parte cartacea, ma andata alla copisteria con 5 euro me l'ha copiata tutta bella, insomma, quindi da muscolo al massimo costa 5 euro per uno se lo può far stampare, se no uno se lo può stampare a casa, chi sta in un lavoro, cioè la stampante lo stesso, non è che va benissimo, va bene. Se ne parli, va bene, sì, no, il purché se ne parli, infatti è un po' questo il valore, cioè trovare delle formule nuove, che appunto non siano stereotipi a cui siamo abituati. Va bene, dai, ti ringrazio anche perché appunto ricominciavo oggi a trasmettere, ci ha aiutato molto anche per noi qua, era 3 mesi di assenza, e questa cosa ci ha aiutato anche a riprendere dimestichezza poi con i microfoni, con le attrezzature, dai. Va bene, dai, allora ci sentiamo forse più in là, non so se domenica riuscirò a passare, mi piacerebbe, vediamo se riusciamo a trovare il tempo, e comunque dai, diamo appuntamento a tutti e a tutte e a domenica al Nido di Vespe. Ti ringrazio ancora, ciao. E a presto, ciao, buona libertà, ciao. Storylines, but bravo, I tell you a story. That's the storyline. I'm gonna do my own life. Just cut. Però non è questa, eh. Invece è questa roba qua. Eccola. Olumisi, male olere. Salutiamo quindi Salvo e la presentazione di Esclusi. When I sit on the club, see you make my attention. Baby, give me attention. Because waiting at the sea for your back want me to mash on. Just give me one chance. King Wale, King Kade, Nemo, so oh yeah. Yaka Wale, Super Mama. Yaka Wale, Sugar Mama. Yaka Wale, even too sure. Yaka Wale, even too strong. Yaka Wale, e lui è Olumidze. Viene dalla Nigeria, ha suonato per l'ultima Onda Rossa Festa nel giugno del 2019. E ci ha detto che molti dei suoi testi, delle sue espressioni ricalcano, risentono del viaggio, della migrazione che lui stesso ha fatto per giungere qui dalle nostre parti. Super mama, yaka wale, sugar mama, yaka wale, even too sure, yaka wale, even too strong, yaka wale, super mama, yaka wale, sugar mama, yaka wale, even too sure, yaka wale, even too strong, yaka wale, super mama, yaka wale, sugar mama, yaka wale, even too sure, yaka wale, even too strong, yaka wale, super mama, yaka wale, sugar mama, yaka wale, even too sure, yaka wale, even too strong, super mama, it's a nice day. I just wanna make you come on stage. Can you let me be your bae? I got drinks, bomb and monkey tea. E canyon gay we handa. Me haru we ashunwa. Vare for he we to tia we wari boge me wagba we peke ime shaun were e balu alu dize me ime hale egbe su we jabi gari ferrari e we hangwa eki bugatti we handa I won't take you till I die cause now you get won't be my wife yaka wale super mama yaka wale sugar mama yaka wale even too sure yaka wale even too strong yaka wale super mama yaka wale sugar mama yaka wale even too sure yaka wale even too strong yaka wale super mama yaka wale sugar mama yaka wale even too sure yaka wale even too strong yaka wale super mama yaka wale sugar mama yaka wale even too sure yaka wale even too strong mama sugar mama kidi gba le mi wa I'm always baddest baby gba mi laye e tu kese mo fe to get to pa fun mi laye bikomo se wo kesi e mo ma wole saye omo baby debele mo ma da e dubule mo ma yi e lakoto mo ma ta e lakoto sori popo to wa ni die mo ma mu ki wole ki jade ni mo so baby toya yaka wale super mama yaka wale sugar mama yaka wale even too sure yaka wale even too strong yaka wale super mama yaka wale sugar mama yaka wale even too sure yaka wale even too strong yaka wale Che Fela Kuti per 20 mesi fu imprigionato. Imprigionato in Nigeria con l'accusa di contrabbando. In verità fu imprigionato per la sua attività politica. Nel 1984 caffè. Maxwell MC, Fresh UK Connection Papi. On va changer la balance. Yes, hold up, poor Papi. Ha. I open my eyes wide every day and the sight is the same. Tired of the same old guys, same old ways, same old statements, same old sayings. Complaining about the state of the place but they ain't campaigning or making change or fighting. They're just liking the page, fake enlightenment to brighten the day. Filled up insight in the slightest of change. Rights of a minor, slice of the pain but I still reside in a blighted state that they tried to escape. Confined, no mind for debate, just close scope. Told by the lies that you're told so they try to cope by lighting a pipe or lighting a smoke or a nosedive for a liner that coke so they can get high and high from the cold. Jack the soul like a fire in the night, it's nice and bold. As the sun rises, not quite so, just the slightest glow. It's all that's there, goes unknown, no one cares. Still feels cold over the years, can't console your rolling tears. Or your coldest fears, gone global, so much prayers. So much hope cause we're all so scared. But au contraire, we won't go there. We act so bold, don't know, don't care. But no jokes cause we go nowhere. Close got blown soldiers, yeah. But not my role, my soldiers are here. Hold up, where? We Maxwell MC, we rip this bro. Si tu kiffes, t'as des gros. If you're feeling it peeps, please let me know. Tu peux le dire, on a le niveau. Realist MCs, sweeping the globe. On s'endort pas, on a pris du flow. Stealing the scene with the meanest of flow. Oracis, ça pique, t'as du flow. We Maxwell MC, we rip this bro. Si tu kiffes, t'as des gros. If you're feeling it peeps, please let me know. Tu peux le dire, on a le niveau. Realist MCs, sweeping the globe. On s'endort pas, on a pris du flow. Stealing the scene with the meanest of flow. Pas de technique magique, tragique, aride, l'armée tarde à se marrer. Armée d'une armée d'amis énervés de première catégorie. Allégorie de pourri, survie comme un putain de condamné. D'année en année, je reste enragé, engagé sans jamais gagner. Mon cercle est torride, massif, mentalement bien artistique, natif de Marseille, Guada, dédicace à Madinina. Armée comme les bas-fonds de Medellin, mes dites ne sont comme un medley. Oracis, please, vas-y, aide-les. The 2 MC, never hustling. Y'a du niveau pour les frelots, j'suis pas ça. Que pour le mago, beaucoup d'artistes veulent être number one. Persévère comme un number two, tout, tout, tout. Moi je rappe pour le number one. Si souvent mis en dessous, si ça se trouve, les MC sont tous affolés de rester sans sous et sans celui qui se copie tous. J'accuse les mythos, michto, orgueilleux et rageux mytho. Viens sur ma planète, tourne sur des platines. Je suis pour internet, je suis chez du platine. Essaye de poser ça plus carré que Kerry. Yeah, Maxwell MC, yeah. Rashi, ça pique, y'a du flow. We Maxwell MC, we rip this bro. Si tu kiffes, faut t'adhérer gros. If you're feeling it peeps, please let me know. Tu peux le dire, on a le niveau. Realness MCs, sweeping the globe. On s'endort pas, on a pris du flow. Stealing the scene with the meanest of flow. Rashi, ça pique, y'a du flow. We Maxwell MC, we rip this bro. Si tu kiffes, faut t'adhérer gros. If you're feeling it peeps, please let me know. Tu peux le dire, on a le niveau. Realness MCs, sweeping the globe. On s'endort pas, on a pris du flow. Stealing the scene with the meanest of flow. Yeah, and that's how we do it. French Connection, Maxwell MC, Orosie MC, Wallace, aka Ping Pong on a beat. Big up, hold up, we're out. Peace. La mezzanotte passata da un minuto, 25 o'clock ai controlli. E questa è ora sì. E begga con la collabs. Black rain cloud on a sunny day, covering the sky in hungry. Infatti nel disco this maze and standing, looking down at this labyrinth of elaborate madness. Si avvale di numerose collaborazioni. Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana razziale. Half of these hazards happen because of our swag actions. The aftermath of our antics. 0649 1750, recapito telefonico. What really matters, we'd rather spread www.ondarossa.info, il sito. We'd get high, lean and laugh up, then give season. Tu sottoscrivi. He's got kids to feed and look out for. Ci sta scritto come si sottoscrive. Full of Mackie D's clutching us up, cause we're so stuffed with cramps up. E perciò fatelo. Doubtful from my mind to the pack. Tutti e tutte. Can't rhyme what's inside, I'm mad, so I use it. Cries for improvement, time for a movement. Time to define what's right, revolution. From my mind to the pad to the music, I rhyme what's inside, I'm mad, so I use it. Cries for improvement, time for a movement. Time to define what's right, revolution. I've not put pen to paper in ages, cause I'm scared of what the page hints. I'm a full of rage and hatred, sick of all the same day-to-day shit. In the way I blaze with to take this, yeah. The fact that I can't ever see changes, my heart ever beat sure. Races as I'm racing the far right, Emperor Eilis Selassie the first places, the strangers, but see it. The part that I played in the everyone loves the vibes that we bring, and everybody loves their music I sing. We blow chatting, and we roots rocking. Freaking sound international, you should know without partial. Freaking sound international, cause we have free credentials. Mr. Chin loves the way that I sing, and him loves the five-star music I bring. Mr. Chang want to buy Fimi song, whose music playing from dusk to dawn. We blow chatting, and we rule swacking. King sound gone international, and you should know we don't partial. Free King sound international, cause we have free credentials. Mr. Brown knows what's going down, roots music playing uptown. Mr. Smith loves all the hits, especially Ja Roots music. We blow chatting, and we roots rocking. Freaking sound, gone international. Freaking sound, freaking sound international. Cause we have free credentials. Freaking sound, international. Hey, we no partial. Hey, hey, hey. This is a special, special. Yeah, they are. vibes, the vibes that we bring. And everybody loves your music, us swing. We road chatting and we rules rocking. Free King Sound, gone international. God, this is when I hit a special, special. Free King International. Don't you know that this is sound in the version? Mr. Chin loves the way that I sing, and him knows the vibes that music I bring. Mr. Chung wanna buy Fimi song, buy Era Bella's song all day long. But don't know say we have to free the king, Rastafari song, ever living sure. Roots gone international, cause this is how we know really, really partial. Sei minuti dopo la mezzanotte. Onda Rossa. Io che sono uscito di corsa, sbattendo dietro la porta, la mia anima sta come. Quindi abbiamo parlato di esclusi, di libertà, di evasione. Di ribellione, di presa di coscienza, di libertà. E così di tanto in tanto il DNA di questo spazio esce fuori prorompente, per cui da capo, clacson libero.

lo perde, abita qua. Poi sono dentro con i cani, pezzi infami, sì. Crolla la porta del 7B. Nemmeno tempo di tirarsi indietro quando un grido rauco sale verso il cielo. Forse gli piace parlare da soli. Non avrai mai niente da tutta questa gente. Cowboy, Monticello e vai. Nemmeno mobili, nemmeno libri. E una bambola di pezza sotto gli anfibi. Palazzi senza nome, scatole vuote tra le baracche e il sole. Non importa se la legge è con voi, sempre sull'attenti, quelli come voi, sempre addosso a quelli come noi. In qualunque quartiere è già un abuso di potere. Il santo della repressione portato in processione. Quando passa cambia faccia alle persone. No, luci accese nei rioni e cielo nero e graffiti sulle mura del cimitero. Palazzi senza nome, scatole vuote tra le baracche e soli. Se la legge è con voi, sempre sull'attenti, quelli come voi, sempre addosso a quelli come noi. Voi a casa tutti bene, baracche sull'aniere e fuochi la mattina alla stazione di Burtina. E poi, proprio senza cuore, è tutto vero e cammini sulle ceneri di un grande impero. Palazzi senza nome, andate via ma non ci dite dove. Non importa se la legge è con voi, sempre sulla quelli come voi, sempre addosso a quelli come noi. Oh, sempre addosso a quelli come noi. Oh, sempre addosso a quelli come noi. Scatole vuote, Pat, l'abbiamo ascoltato per tutti e tutte quelle che vengono soggetti all'attenzione delle forze che sgomberano a fianco di tutte le persone, tutti i compagni e le compagne che vengono sgomberati dalle case, dagli spazi sociali, dalle situazioni culturali, insomma. E quel macigno che hai appeso al collo, beh, lascialo lì. Insomma, insomma, una cosa che non sentivamo da un po' di tempo, i suoni di Onda Rossa. Pian piano tornano a farsi vivi. Insomma, Kalashnikov Collective, Sonia e la grande distribuzione. Ma come ci vivi? In questa protesi di grande merda. تولين دوانم ترضى تغطي فلتانم ريدي تسلوانم تغطي فلتانم ريدي تسلوانم Con questo con Himahan, che sono una formazione Tuareg che proviene dall'Algeria, da cui abbiamo ascoltato Taraman. Concludiamo questa nuova prima puntata per l'anno radiofonico 2019-2020. Questo è l'oggi, questo è il nostro mondo. Un mondo che professa il potere liquido, esteso, diffuso al di fuori delle grandi potenze che ci sono ancora, che si vorrebbe diluito appunto in una trama di mille, un milione o quante ne volete voi, diverse tendenze e sfumature. Un potere che si autoreplica nella finanza, nel giro dei soldi, nel pianeta, e che quindi tutto sommato non è di nessuno ed è di tutti. Quasi fosse diventato autonomo dalle nostre scelte e dalle nostre volontà, ebbene. Ebbene, quest'oggi è un fatto invece di realtà un po' diverse che ricordano un mondo arcaico e primitivo e di sopraffazione. Abbiamo parlato di carcere, ma potremmo parlare di guerra. Di oppressione e repressione. E chissà che proprio non lo faremo ancora. Per ora questo resta. Uno spazio al di fuori della produzione e del consumo. Uno spazio dove si può fare, si può creare. E ci si prova almeno manipolando qua i CDJ e il mixer e interrogando qualcuno che ne sa più o qualcuna che ne sa più di noi. Detto questo, non ci resta e darvi appuntamento a mercoledì prossimo. Yalla. Non prima di aver ricordato il palinsesto del giorno che è appena entrato, quindi è automatica sonata fino alle 8 di domattina, con si riapre in diretta con le prime pagine dei giornali e la rassegna stampa cittadina e locale, i redazionali della mattina di Radio Onda Rossa alle 13, il giornale radio alle 13.30, lo spazio comunicazione, alle 14 tutta scena cinema, alle 16 Attica Blues oltre al Black Music, alle 17 La Schiena del Sol, alle 18 i redazionali di Radio Onda Rossa, il Mezzedes del pomeriggio, dalle 18 alle 20, alle 20 Tabula Rasa, la trasmissione sui libri della radio alle 23 chiudono i cuginetti compagni di Apostasia. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro che ci hanno ascoltato da condizioni di limitata libertà personale. Dai, ce ne andiamo sotto la luna comunista.